Speciale, la politica nel tunnel. Dare un consiglio a Bersani, senza ironia, senza battute, seriamente, potrebbe essere un punto d'incontro. Voti la Gabanelli anche lei. Voti una signora che bene o male ha sempre fatto il suo lavoro, anzi, bene piuttosto che male. Ho telefonato a Di Pietro, non era molto contento, però la Gabanelli è una che non ha mai fatto inciuci con Berlusconi, un miracolo oggi, e poi è una signora, e sarebbe veramente un grande segnale. Quindi sì, qualcuno ha detto che potrebbe diventare con la Gabanelli la Repubblica delle Manette, chissà che non sia un'idea anche quella con cui ci potremmo togliere qualche soddisfazione. Quindi ci pensi, Bersani, ci pensi, e potrebbe essere veramente un inizio di una chissà collaborazione, può darsi, chi lo sa. Provi a votarlo e cominciamo da lì. Poi vedremo le borse elettorali, legge corruzione, incandidabilità di Berlusconi e tutte queste cose che magari troveremo in una convergenza, se non con lei, con i giovani. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio, e abbiamo sentito il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che lancia la nuova proposta o provocazione a secondo di come si vuol vedere, visto che il Movimento 5 Stelle ha votato online per la giornalista Milena Gabanelli di Report come il nome scelto dai grillini per il Quirinale. Intanto ci potete subito mandare un sms al 349-238-6666 per dire che cosa ne pensate di questa candidatura, appunto Milena Gabanelli al Quirinale, e poi per dire che cosa ne pensate anche della proposta di Beppe Grillo, che come abbiamo sentito dice a Bersani: ma perché non vota la Gabanelli e magari poi facciamo anche il governo insieme, o almeno questo è quello che fa presupporre. Intanto sentiamo subito che cosa ne pensa una deputata 5 Stelle, Carla Ruocco, esperta di economia e deputata grillina. Sentiamo. È una donna, un grande professionista, personalità assolutamente positiva sotto tutti i profili. Che cosa rispondete a chi vi dice: va bene, ma lei non ha esperienza di governo, non ha esperienza di politica? Quello che rispondiamo sempre: quelli che hanno avuto esperienza hanno fatto tutti questi disastri, quindi magari chi non ha esperienza ma una grande intelligenza, un grande profilo, una grande qualità, potrebbe fare anche meglio. Quindi Prodi è stato cancellato dalle vostre, non ha passato il ballottaggio. Io mi attengo alla rete, la rete ha deciso così e sono contenta che sia stata intanto consultata la rete di tantissimi cittadini, e poi sinceramente anche che come donna e come insomma cittadina sono contenta di una scelta del genere, tra l'altro. Aspetta, c'è un po' di maretta per questa cosa di Roberta Lombardi, che non sapeva quanti anni doveva avere il Presidente della Repubblica. Oggi Beppe Grillo è tornato ad attaccare, ha detto: ah, adesso dobbiamo diventare tutti costituzionalisti, però è stata un po' una gaffa. Io mi occupo di argomenti più concreti, quindi questi sono argomenti collaterali per quanto mi riguarda. Quindi vado sul concreto, cerchiamo di lavorare bene tutti e secondo me stiamo andando avanti e continueremo a portare avanti il nostro lavoro. Ma lei ha studiato diritto costituzionale, lo sapeva che il Presidente della Repubblica doveva avere 50 anni? Certo, sì, io lo so. Quanto ha preso a diritto costituzionale? 30 e lode. E questa era Carla Ruocco, che noi abbiamo un pochino stuzzicato per la gaffa della Lombardi. Intanto nei vostri sms si dice: ma che cosa dice Beppe Grillo, fermatelo. Magari invece un altro radioascoltatore: alle primarie del PD un altro, hanno votato più di 5 milioni di persone, alle quirinarie online che numero hanno votato? Ok per la Gabanelli, dice un altro radioascoltatore, una svolta eccezionale. Sonia: sì, da Alf di Vicenza, ma che preparazione può avere una seppur brava giornalista, dice Massimo. massimo, a ognuno il suo mestiere, grande giornalista, ma non la vedo come mediatrice. Diego da Venezia, sono d'accordo per Milena Gabanelli al Quirinale, grande donna, la Gabanelli non mi sembra niente male, a meno che non scenda a compromessi, ma non sono un grillino massimo, non potevano scegliere un candidato migliore, vai Milena. Giuliano da Roma dice la Gabanelli all'età minima, si è del 54, Gabanelli for president e come seconda possibilità Rodotà, Gabanelli ottiene la scelta, il PD rialzi la testa e voti, è assolutamente d'accordo con Grillo, bene la Gabanelli ma meglio la Bonino, non mi sembra adatta perché mi sembra un'ottima giornalista, questi alcuni pareri e sicuramente nel PD assolutamente non sono molto d'accordo e sentiamo a questo proposito Gian Claudio Bressa. Io neurochirurgo, primario neurochirurgo al Gemelli. Perché non va bene la Gabanelli? È una giornalista che fa inchieste. Perché io non vado bene come primario neurochirurgo al Gemelli? Non ho mai fatto il medico, non ho nessuna esperienza, per cui posso tranquillamente fare primario neurochirurgo. Perché dovrebbe essere la Gabanelli, che non ha nessun tipo di esperienza politica, non ha nessun tipo di attività che possa essere ricondotta alle garanzie costituzionali? Stiamo parlando del Presidente della Repubblica, non stiamo parlando di un talk show. Quindi i candidati sono sempre Prodi e Amato? I candidati saranno quelli che verranno espressi dal Parlamento a partire da giovedì. Ma i candidati del PD? No, i candidati del PD ci saranno quando si comincerà a votare. Prodi è Amato, il più probabile. No, lo so, ce ne sono tanti di candidati possibili, basta che abbiano compiuto 50 anni, come anche i grillini da qualche ora sanno. E questa era Bressa, ma sentiamo invece a questo proposito il parere di Mara Carfagna del PDL. Per il Popolo della Libertà il Presidente della Repubblica deve rispondere a determinati requisiti, prestigio nazionale, credibilità internazionale, capacità di unire e non di dividere. Mi sembra che la Gabanelli non risponda a questi requisiti, che sia dichiaratamente una donna di parte, quindi non in grado di rappresentare l'unità nazionale, non in grado di rappresentare tutti gli italiani, non mi sembra che all'estero goda di credibilità e di notorietà, credo che sia più una provocazione che altro e in un momento in cui il paese è stanco, profondamente stanco e provato da una grave recessione, le forze politiche dovrebbero fare delle proposte non divisive ma delle proposte in grado di unire, delle proposte in grado di far capire che le forze politiche hanno a cuore non gli interessi di parte, non la lotta di un partito contro l'altro, ma i problemi dei cittadini, delle imprese, delle famiglie italiane. Ecco, ancora una volta abbiamo dal Movimento 5 Stelle una provocazione, non una proposta. Ecco, voi avete già messo il veto su Romano Prodi, ma per esempio un personaggio come Amato, che è stato comunque anche socialista, il vice di Bettino Craxi, e quindi è stato poi un presidente del consiglio tecnico. Guardi, in queste ore così delicate che ci separano dalla prima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica, il Totonomi è, come dire, inutile e rischia anche di essere dannoso. Ma come donna, il nome di una donna magari che le piacerebbe, tipo Anna Maria Cancellieri, la Severino? No, non si fa il nome di una donna per solidarietà femminile, si fa il nome di una donna perché in quella donna si intravedono quei requisiti di esperienza politica, di esperienza istituzionale. E allora sono tantissimi i nostri sms, alcuni dicono Gabanelli al Quirinale, strada secondo, zero cervello del Movimento 5 Stelle, Roberto da Milano, la giornalista anche se non esperto, peggio di quello che hanno fatto non si può fare, ottima scelta la Gabanelli, non d'accordo un radioascoltatore, invece Gabanelli presidente, dice Leone, da Vicenza sarebbe un esempio di modernità, come si fa a dire che Iole non ha esperienza politica? ne ha lei della maggior numero dei parlamentari, la Gabanelli sarebbe fantastico, se poi penso a D'Alema e D'Amato, e amato Gabanelli per tutta la vita, la Milena sarebbe perfetta, saluti Massimo, Gabanelli for President, Maurizio, andiamo a vedere la Minetto, allora che aveva, dice Simone, insomma, stanco di Prodi e D'Alema e Berlusconi, il paese è stanco, ma nessuno ricorda la Carfagna dei 77.000 euro che le ha regalato il suo schifoso partito l'anno passato, non ha esperienza, gli inciuci vanno avanti, Tina.